E oh, Radio ZM live. Tra pochissimo, pillole di ecologia. Una puntata dalla parte dell'ultimo regno degli esseri viventi. Meno cagato di tutti. Più odiato, forse, da alcuni. Ringraziamo il buon Pika per il suggerimento che ormai mesi e mesi or sono ci fece per la sigla Green World dei Gorillaz. Tanta roba. A tra poco, Rigaz. Rieccoci qui, bentornati e bentornate su Radio ZM. Questa è Pillole di Ecologia, io sono Cesa One, qua con me c'è il buon Dave. Bella raga. E per la prima volta da un sacco di tempo riusciamo a farla live and direct. Questa cosa l'avevamo un po' spoilerata la scorsa puntata e avevamo anche un po' spoilerato l'argomento. Devo dirti, Dave, mi è mancato di brutto il buon vecchio R2D2 qua davanti con doppio schermo, MixXX. Tra l'altro, visto che siamo live, ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è anche la possibilità di scriverci. Esatto. Qualcuno ci stesse o qualcuna ci stesse ascoltando, esatto. Può scrivere su Telegram a Radio ZAM-chat e noi risponderemo a eventuali domande o insomma cazzate, esatto. Puntualizzazioni, qualsiasi cosa. Esatto. Oh, veniamo all'argomento di oggi. Sì, allora, beh, l'argomento di oggi sono i funghi, questo niente gruppo di organismi che è straodiato da un sacco di persone perché non so, possono causare enormi problemi all'agricoltura, al cibo che scade, possono far ammalare la gente, robe così. però hanno anche i loro pregi, diciamo. Esatto, noi ci siamo collegati a questo argomento perché la volta scorsa abbiamo parlato di riforestazione, esatto. E più avanti vedremo che i funghi, quando si parla di foreste eccetera eccetera, sono tipo un punto chiave dell'ecosistema. Esattamente. Ma io che sono, diciamo, faccio la parte dello scrauso che non sa un cazzo, quando si parla di funghi a me vengono in mente o quelli sotto i piedi, mm-hmm. oppure tipo i porcini o quelli, sì. che si mangiano, insomma. Chiaro. I funghi, allora, in primo luogo i funghi non sono, cioè sono un gruppo enorme, cioè nel senso nella natura ci sono le piante, gli animali e i funghi, quindi come gli animali vanno dalla verme all'aquila all'elefante, anche i funghi esistono in un miliardo di forme e dimensioni e funzioni diverse. Ok. Però hanno tutti più o meno le stesse caratteristiche. La caratteristica principale è che sono eterotrofi, ovvero non sanno farsi il cibo da soli. Okay, come invece noi. Come noi, esattamente come noi. Cioè, noi, così come i funghi, dobbiamo mangiare per esistere, mentre invece le piante se ne stanno lì spiaggiate al sole, e finché hanno acqua e abbastanza nutrienti del suolo, non hanno bisogno di mangiare perché si fanno il loro cibo da sole con la fotosintesi, mentre invece i funghi no, e quindi si dice che sono eterotrofi. E in particolare i funghi hanno la caratteristica di essere gli ultimi della coda, cioè quando si parla della catena alimentare abbiamo quindi le piante in cima, anzi le piante alla base. Ok, cioè in cima ci sono i carnivori, no? Sì, cioè se lo prendiamo come ordine di cibo, le piante sono le prime, perché sono le prime a fare il cibo. Ok. Poi le piante vengono mangiate dagli erbivori, gli erbivori vengono mangiati dai carnivori, e i carnivori quando muoiono, e tutti quanti quando muoiono vengono degradati. E chi si occupa di degradare? Tra tutti questi ci sono anche i funghi. Anche e soprattutto i funghi. Questo perché i funghi sono i più skillati di tutti nel degradare la roba. Ok. Cioè nel senso, loro sono gli ultimi del ciclo, e quindi sono quelli che si occupano di degradare le cose che nessun altro riesce a degradare. Okay. Quindi vediamo se ho capito, quei nutrimenti del suolo di cui parlavi prima per le piante, in pratica li creano i funghi. Essenzialmente sì. Ok. Cioè quando cade un bastone o un legno o un animale morto per terra, ci sono un sacco di insettini che se li mangiano, però buona parte del lavoro viene fatto anche dai funghi, che lentamente digeriscono queste cose, le consumano fino a lasciarne solo elementi quasi, cioè molecole semplicissime, non grosse molecole ancora tutte piene di legami difficili da digerire, così. Ok, prima di chiederti, cioè io vedo il fungo, il porcino che mi voglio schimicare, quello lì è tutto il fungo, prima di chiederti di rispondere salutiamo il buon Gigi che ci scrive sulla chat di Telegram, ci dice che abbiamo delle belle voci, lo interpreto che si sente bene, quindi bella lì. E quindi bella Gigi, sti funghi, quindi quando funghi. Io mi piglio il porcino e lo stacco dal terreno, esatto, quando pigli il porcino non stai uccidendo il fungo minimamente, questo perché il fungo che noi raccogliamo è solo una piccolissima parte del vero corpo del fungo, ed è quella parte che il fungo usa per riprodursi, e viene chiamato il corpo fruttifero, questo perché è quasi come fosse il frutto, come fosse una mela su un albero, quello è il porcino che sbuca fuori ed è stato fatto apposta dal fungo per spargere le proprie spore, e magari sfruttare anche degli animali che se lo mangino per portarli in giro. E, i funghi che sono in grado di fare il fungo sono in realtà i funghi più guzzi di tutti, okay. Cioè i più avanti con l'evoluzione, diciamo, okay. Quelli più complessi, e sono fatti di cioè il vero corpo del fungo è fatto dalle ife fungine, okay. IFE, e queste ife sono radunate in una cosa che si chiama micelio, che è praticamente questa rete di sono come le radici, però sono molto più piccole, hanno una distribuzione capillare nel suolo e sono quelle il vero corpo del fungo, quindi raggiunge qualsiasi punto con queste piccole ife che secernono acidi e un sacco di altre sostanze chimiche per degradare quello che trova e lo riassorbono. Ok, allora giusto una piccola cosa per abbassare un po' il livello: quando andate a funghi, se ne trovate qualcuno, i vecchi saggi dicono non dite mai dove l'avete trovato. Esatto. Chi lo sa, ma... Esatto, questo perché i funghi tendono anche a crescere sempre negli stessi posti, perché per una serie di ragioni. Una di queste è il fatto che questo micelio non è distribuito uniformemente nella foresta, ma di solito ha un centro più o meno dal quale si espande, si dirama, perché la spora originaria era arrivata lì ha iniziato a crescere e così. Oppure in altri casi magari il micelio si concentra dove ci sono un sacco di nutrienti, quindi un sacco di roba da smaltire e quindi un sacco di cibo per lui. Ok, e dicevi che sono i più complessi, quelli diciamo sì, visibili. Ce ne sono, ad esempio, quello dei piedi. Quello dei piedi non fa i funghi, cioè non fa il corpo fruttifero, quindi non ti escono dei porcini dai piedi. Grazie a Dio. Sì, questo perché tutti i funghi che non sono basidi o miceti non fanno il fungo, quindi si riproducono sempre per spore, ma non devono produrre tutto quel fruttone per produrle. E quindi sono fatte solo da ife fungine e quindi sono questi filamenti. Okay. Che nel caso di quelli, non so, la candida oppure i funghi che vengono sulla pelle o nei piedi, praticamente si mangiano gli strati di pelle esterni, che è pelle morta, e poi okay, ogni tanto con le radici, con le ife riescono a raggiungere un po' più in profondità e allora prudono, okay, perché c'è anche una reazione del corpo per difendersi. Ok. Ce ne sono alcuni anche, non so, tipo le piante, ci sono le alghe unicellulari che appunto sono unicellulari, ci sono anche funghi, così? Sì, ci sono anche funghi unicellulari di cui non so un cazzo, però sono comunissimi, sono diffusissimi, ce li avete in faccia, nel corpo, dentro, su ogni superficie ci sono funghi unicellulari, okay, ma non so come, non ne so quasi nulla. Buono sapere. Una cosa strainteressante dei funghi è che sono gli unici in grado di digerire il legno. Ok. E questo ci rimanda a una storia ancora più antica, ovvero il fatto che prima che esistessero i funghi, no, scusate, prima che esistesse il legno, era tutto diverso. Perché se torniamo a circa 300 milioni di anni fa, ok, le piante erano tutte molto basse, perché non avendo il legno non avevano questo supporto strutturale che gli permettesse, cioè il legno duro, erano tutte verdi, quindi si piegavano se crescevano troppo. Sì. E poi un giorno alcune piante hanno evoluto questa nuova molecola che si chiama tuttora, perché gli abbiamo dato noi il nome, certo, si chiama lignina. Okay. La lignina è la proteina che forma il legno. E quando questa è comparsa per la prima volta sulla Terra non c'era niente che sapesse come digerirla, perché okay, è una molecola molto resistente, servono degli enzimi fatti apposta, così. E quindi in quel momento era questo materiale organico che non era deperibile, non si decomponeva. Sì, e quindi si accumulava un botto, ed è esattamente quello che oggi è la plastica, che è un materiale organico, quindi in teoria pieno di energia, cioè che potrebbe essere, certo, un'ottima fonte di nutrimento, solo che è nuovissima dal punto di vista evolutivo e quindi non c'è nulla al momento che sia in grado di digerirla, o quasi. Okay. E il legno a quei tempi era la stessa cosa, e quindi successe, sì, succedette che no, forse per successe. Successe, sì, sì. Qua sì. La Buzzi sarebbe felicissima. Credo che succedette. Ah, è quello che. È vero. Cioè, succedere, tipo, cosa che arriva dopo. Il re che succede il re, esatto, precedente. invece successe è una cosa che è accaduta prima. Mamma mia, qui era le perle di italiano. E, praticamente successe che per milioni di anni venne prodotta una quantità enorme di legno che non veniva digerito e quindi si accumulava per spessori di chilometri, e si verificò il problema opposto di quello che c'è oggi, ovvero che tutta la CO2 veniva immagazzinata nel legno e non veniva più liberata perché non veniva digerito, decomposto, okay, questo legno. E quindi si era formato, questo ha causato una mezza età glaciale che ha causato non pochi problemi alla vita di allora. Finché un giorno degli eroici funghi hanno imparato a digerire il legno e ristabilito l'equilibrio della natura. Però a noi di quest'età rimane cioè quello che è rimasto a noi di quest'età sono tutti i depositi di legno, cioè scusa, oggi non c'ho la testa, tutti i depositi di carbone. Ok. Infatti questo periodo geologico viene chiamato il carbonifero. Il periodo carbonifero è quando appunto nacque la lignina, non poteva essere digerita e quindi si accumulò e poi venne coperta da nuovi sedimenti, compressa per appunto 300 milioni di anni, che storia, per diventare carbone, l'antracite. Che... quindi possiamo un po' dire che i funghi ci hanno salvato dal legno, in esatto, qualche modo. I funghi ci salvano dal legno tuttora, sempre in agguato. Diciamo, facendo un rapido salto in avanti, oggigiorno i funghi hanno ispirato, diciamo, diverse forme artistiche, mettiamola così, ho dato il nome anche a dei gruppi come, esatto, gli Infected Mushrooms, che sono gli autori del primo pezzo che manderemo, che si chiama On the Road Again. Yeah. È stato scelto appunto come al solito digitando funghi in diverse lingue su YouTube e le canzoni che uscivano. No, in realtà questi li conoscevo già. La canzone è stata scelta perché è la più corta, loro fanno delle canzoni tipo da 10 minuti, okay, così questa è di 4, quindi era, diciamo, tempistiche radiofoniche. Bomba. E niente, quindi ce la sentiamo e poi ritorniamo qui a Pillole di Ecologia. Yeah. We'll be right back. Questi erano gli Infected Mushrooms, On the Road Again. E torniamo a parlare dei nostri cari e amati funghi. Prima dicevi che quando tu vedi il corpo fruttifero di un fungo, in realtà il corpo vero del fungo è molto più grande sulla terra. Quanto possono essere grandi un fungo? Bella domanda. Il fungo più grosso è tipo diversi chilometri di diametro, cioè uno degli esseri, forse l'essere vivente più grosso del mondo. Quella solita storia, tipo che trovi magari su Facebook quel post che dice: ah, la balena non è l'animale più grosso. Sì, c'è un fungo da qualche parte che hanno visto che è grosso chilometri e chilometri. Ok. Ed è praticamente questa, sì, tutto il suolo è pieno di questa rete di ife fungine che sono un po' ovunque. Sì, perché i funghi, cioè, raggiungono dimensioni notevoli. Magari ci sono quelli che sono poco grandi, non so, un metro di diametro per tutte le ife, però ce ne sono alcuni che diventano veramente giganteschi. Ok. E quindi, non so, immaginiamoci una foresta matura, si dice? Sì. Ok? Sì, ci sta. Quindi con alberi che sono alcuni già morti, eccetera, eccetera, ci saranno un botto di funghi dentro lì. Sì, nelle foreste ci sono un botto di, cioè la maggior parte della biodiversità in una foresta sono i funghi che la decompongono. Questo perché sono estremamente, c'è un'enorme varietà e sono estremamente specializzati. Magari alcuni si specializzano nel decomporre le foglie, altri nel decomporre i rami piccoli, altri nei rami grossi, ma anche sono molto molto più minuziosi, e quindi c'è una varietà enorme. E la cosa più interessante è che i funghi non sono completamente separati da tutto il resto, bensì riescono hanno questa seconda skills, oltre alla capacità di decomporre qualsiasi cosa. La loro seconda skills è il fatto che riescono a connettersi con le piante, e questa connessione che forma poi una relazione molto molto stretta tra il fungo e le piante, okay, si chiamano micorrize. E come funzionano? Sono una parte del corpo sia della pianta che del fungo che questa relazione è vecchissima, e nel corso del suo sviluppo, della sua evoluzione, è diventata estremamente complessa. Ce ne sono diversi tipi di queste micorrize, ma tutte hanno più o meno una forma per cui c'è nelle cellule delle piante, nelle radici delle piante, vengono raggiunte da queste ife fungine, questi filamenti del fungo che riescono ad arrivare ovunque, penetrano anche all'interno della radice, delle punte delle radici, e le infettano, tra virgolette, però positivamente, ovvero riescono a entrare alcuni nelle pareti delle cellule, altri fin dentro le cellule, e creare questi grovigli di ife che usano per fare una comunicazione molto molto precisa con le piante. Okay. Una comunicazione che però è fatta con sostanze chimiche. Sì. Alcuni mandano delle molecole che veicolano dei segnali e ricevono dei segnali di risposta, e la cosa che essenziale di questa comunicazione è che media lo scambio di nutrienti e altri tipi di risorse, ed è mutualmente positiva. Ok. Ovvero il fungo, essendo così abile nell'assorbire i nutrienti dal suolo, offre quelli alla pianta insieme anche all'acqua, quindi offre un miglioramento nella capacità di assorbimento e nella potenza delle radici, quindi. Okay. E la pianta in cambio dà quello che le piante sanno fare meglio, ovvero gli dà zuccheri, credo, non mi ricordo poi in che forma si è trasferito. Comunque gli dà un'altra sostanza nutritiva. Sostanza, quello che producono le piante. Okay. Quindi il fungo dà i minerali che servono da mattoni per costruire la pianta, e la pianta gli dà quello che produce. Ok. E questa relazione beneficia sia la pianta che il fungo, perché il fungo può crescere e non deve digerire, assorbire cose, produrre lui la sua stessa sostanza, perché quella gli viene data dalla pianta, in questa relazione che diventa estremamente stretta. E è una micorrizza, è fatta da una pianta, mettiamo un albero e il fungo, oppure da più, cioè... Esatto, la cosa più zarra è che dopo aver scoperto che c'era questa connessione, è stato scoperto che questa connessione può connettere anche diverse piante, ovvero diverse piante possono essere connesse allo stesso fungo, anche piante di specie diverse, non so, una quercia e un acero possono essere entrambe connesse a questo fungo, e il fungo può fare da veicolo di nutrienti e anche altri segnali chimici tra le diverse piante, e quindi si forma quello che viene chiamato un network micorrizico. Minchia, figata. Una specie di internet, sì, sì, delle, sì, piante. Ah, quindi non so, ad esempio una pianta magari è più in sofferenza e ciuccia più nutriente da tutte le altre. Esatto. Oppure anche, può anche succedere che sì, più piante tra virgolette collaborino, okay, al permettere la crescita per esempio delle piante più giovani, più piccole, che sono anche più vulnerabili. E è estremamente interessante, e peraltro le piante sono anche in grado di utilizzare queste micorrize per trasferirsi informazioni, come per esempio se una pianta sta venendo attaccata da un parassita, e questo parassita quindi può spargersi nelle altre piante che gli sono vicine, okay, la pianta può mandare dei segnali di stress tramite le micorrize alle altre piante che gli sono vicine, e queste piante aumenteranno le loro difese immunitarie, un po' come un vaccino quasi. Ah, ok, che storia. Figata. E altre cose fighe delle micorrize sono per esempio che ci sono gruppi di piante che dipendono dalle micorrize, per esempio, cioè non sono solo un aiuto. Per esempio tutte le orchidee italiane almeno producono semi piccolissimi. Il seme è anche una riserva di nutrienti e di energie, quindi le orchidee partono con semi che non hanno abbastanza energie e nutrimenti per creare una pianta. E come fanno a insediarsi? Tramite seme. Negli stessi semi ci sono anche le spore dei funghi okay, con cui fanno la simbiosi, la micorrizza, e quindi quando il seme arriva, prima che nasca il seme, si spargono le ife fungine, si forma un piccolo micelio che fornisce il nutrimento iniziale a questo che seme. Storia ed è clamoroso, minchia, zarrissimo. E oltretutto le orchidee sono particolarmente per questa ragione connesse ai funghi, e sono in grado da una parte di sfruttare al massimo loro vantaggio la relazione della micorrizza, ovvero ingannare il fungo e non dargli alcun nutrimento, ma prendere tutti i minerali che il fungo gli viene dato. E questo ci fa anche vedere che in realtà non è una relazione in cui tutti sono amici e tutti si danno, in realtà c'è un'estrema competizione in cui ciascun membro di questo scambio fa tutto quello che può per dare il meno possibile e ricevere il più possibile, okay, ovvero portare una competizione per portare a proprio favore questo okay, come si chiama, bilancio, questo sì, equilibrio, sì. Okay. Ed è mega interessante. E alcune orchidee usano invece i funghi come veicolo per succhiare i nutrienti dalle piante vicine, quindi formano una specie di parassitismo mediato dal fungo, ok. E quindi riescono a crescere senza produrre alcuna clorofilla, quindi non hanno alcuna parte verde. Ok, che storia. Ed è una bella storia, sì. Sì. E quanto ti faccio questa domanda perché mi viene da pensare a quando si arano i campi. Quanto sono profonde queste micorrize? Cioè, in un campo coltivato ci sono oppure no? Esatto, questo è un punto chiave, che le micorrize in realtà sono... Più vai in profondità, meno ce ne sono, e sono il 90% nei primi 30-40 centimetri di suolo. Ok. Quindi arare il prato in realtà è un enorme danno per questo, perché va a distruggere tutto quel network che si era formato, tutte quelle connessioni vengono arate. Tu immagina di arare i cavi di internet ovviamente perdi la connessione, si perdono tutte queste connessioni, viene enormemente danneggiato il network micorrizico che sparisce, e quindi le piante devono fare le cose tutto per conto loro. Ok. E questo è un problema che stanno studiando e cercando di affrontare con la scienza, ma anche la pratica. E ok, ad esempio? Per esempio, una cosa è la pratica di non arare più i campi, perché, ed è una cosa che viene fatta per lo più nell'agricoltura, nella permacultura. Okay. Quindi quell'agricoltura che già parte come punto di partenza, che hai piante che sono lì tutto l'anno, e tutto l'anno cerchi di produrre qualcosa in qualsiasi momento, qualsiasi stagione. E appunto per garantire una massimizzazione di quanto viene prodotto, una delle cose che si sta provando è appunto facilitare l'esistenza di questi network di micorrize che appunto pimpino il funzionamento delle piante. Ok, bomba. Quindi quello che hai raccontato la volta scorsa di trasferire una parte di terriccio di una foresta matura in un campo, cioè in un terreno dove invece ci sono alberi giovani, va in questa, cioè va nella direzione di creare questo network. Esattamente, perché appunto in una foresta matura ci sono molte più specie di funghi e quindi c'è un network di micorrize molto più articolato, e ciascuna micorrize magari è più competente nel liberare i nutrienti da alcune risorse invece che altre, non so, magari ci sono le micorrize dei rami, le micorrize degli animali morti, le micorrize del fango, e quindi c'è tutto un sistema che funziona meglio, e questa cosa è assente in una foresta nuova, molto giovane, perché magari le risorse non sono state fino a quel momento abbastanza ricche da permettere la creazione appunto di questa comunità del suolo, o magari semplicemente questa comunità, come avevamo detto l'altra volta, non ha fatto ancora in tempo ad arrivarci, perché è come se dovesse colonizzare una nuova isola, e quindi impiantando delle zolle di terreno da un luogo dove appunto il network micorrizico è ben sviluppato a una zona dove non è sviluppato, è ipotizzato, ed è stato anche provato per alcuni tipi di ecosistemi, che aiuti un sacco le piante, come se appunto trovassero un compagno di lavoro che sa fare delle cose mega bene, e insomma tutto funziona meglio. Ok, ci sta. Io direi possiamo mandare la prossima canzone, che parla invece di funghi che si mangiano. Si chiama Funghi in salsa rosa, di Elfo. Bella per Elfo, rapper siciliano Guzzo. Secondo me anche abbastanza forte, e niente, ce la sentiamo, e poi torniamo qui su Pillole di Ecologia, Radio ZM. Ricordiamo che chiunque ci volesse scrivere può farlo sulla chat di Telegram, Radio ZAM-chat, e chiederci cose, salutarci, esatto, raccontarci qualcosa. Lo vediamo live. Io. Ancora musica, parliamo di un rapper siciliano che è già una star su YouTube, dove il suo brano Sangue Catanese si avvicina al milione di visualizzazioni. Si tratta di L'Elfo, lo ha intervistato per noi Roberta Marilli. Da barono spara e basta. Otta col piede sta mala con basso. Mi sta parendo la sta di Yugano, cammi indietro poco, poco, poco, sangato. Mi vedono spettino e gisciati, dietro microfono ha detto sta cosa. Se si castigo lo parano fuggi, aspetta che fuoco questa sta rossa. Liricamente io vi sono Valaria, mi sono sentito romorci Catania. Per me non si basta le fare una femmina, sparti una femmina l'aria. Ven a tagliare i mendevi stirati, ti faccio a dire di come si suona. Da vita poi sono migliati, però qui sta vota fa una cosa buona. Fanno i regagno tipo religione, perché te formaggio di prima mattina. La tua canzone spacca carina, a me canzoni di spacca carina. Un secondo fango mitano, mi sparugliavano tutti sti merdi. Ora so più il microfono, faccio bagnare tutti i femminetti. Tutti i miei frati non sono latino, ma sono di ritumbo scopino. Dici che non sono forte, ma non mi succare la diglia. Da che ti cado di specchini, vediamo ripise, abbiamo rativa. A tuo caso può fare un leone, picchi su nesci si nisce lo Simba. Testi crudi tra risse, cocaina e l'ossessione spasmodica di fare soldi. Mi stanno che sotto in giacca, mi insegnano che hanno depulito. Cascia da Londra, si viro cavallo, sei lasciata di pietra e di scito. Non umani, si cazzicatta, visti mi cura casa da staiata. Non ti chiscano più messi da bratta, ti visti imbicato una gomma la scappa. Mi vicina ma la gavetta, mi vici magari a to solo. Ora sogno ma lo rapper, fammi una statua di oro. Catania ma tegno da mano, sempre da perso ma volto. Si può dire che su moro rap a Catania è morto. Quando ero unico non c'era le fonte, meglio così, dirimi. Scappi sputtusati, figli ugari sembro ghinnici. A scuola lasciata tanti di accampari, che ero sin tasciare a colline in le mano. Chi se non beretto con malo campari, che mano caduto in da pizza pagliari. Noi, pisci rossi, voi, pisci russe. Non pari spagliamento, a te con spaglio di canusci. Ora sono esce ragazze, chi siani mi rigono un bare simbazzo. Tu quando esci ragazze, chi siani ti rigono muto pagliazzo. Ok, il bello della diretta, bella, raga, è che succedono anche questi svarioni tecnici. A MixXX è successo, stavo cercando di scrivere a Gigi, in verità, esatto, una cosa dicendo quanto spaccava la canzone, e soltanto che l'ho scritto dentro MixXX e toccando tasti a caso ho fatto un degenero. Comunque siamo riusciti a risolvere la questione nel tempo della canzone, che tra l'altro spaccava di brutto. Sì. E rieccoci qua a pillole di ecologia. La canzone forse è stata estesa accidentalmente di 2-3 minuti, però adesso siamo qua. Esatto. E quindi parlavamo di funghi, parlavamo di utilità che i funghi hanno nelle foreste, con le micorrize, questi network. Non solo nelle foreste, tra ogni ecosistema, okay, anche il giardino del parco c'ha un network di micorrize. Ok. E quindi adesso ti chiedo che tipologie di funghi ci sono che sono utili a noi, cioè al di là del porcino che ti mangi. Esatto. La questione è che, appunto, essendo così ovunque, onnipresenti, i funghi sono strettamente connessi alla cultura umana e sono stati usati per tantissime cose, ci sono utili per tantissimi motivi. In primo luogo, i funghi che si mangiano sono buonissimi, cioè boh, raga, i porcini sono troppo buoni. Sì. E anche tutti gli altri funghi, ovviamente quelli velenosi di solito sono amari, però di base sì, quelli non sono, i funghi buoni sono strabuoni. Sì. Poi un'altra cosa che magari a volte non si considera è che i lieviti, che sono usati per un sacco di cose, sono dei funghi anche loro, e quindi ai funghi noi dobbiamo la birra, i formaggi, il vino, il pane e anche tutte quelle robe tipo la kombucha, il kimchi, quelle robe che, perdona l'ignoranza, non ho la minima idea di cosa siano. Sono tipo, la kombucha è tipo un tè fermentato, ok, che va di brutto in alcuni posti, e il kimchi è un cibo del sud-est asiatico, strabuono, okay. Tipo cavolo fermentato, mi sembra. Ok. Strabuono. Detto così non è molto invitante, però magari Fergi lo apprezza. Sì. E questo perché, appunto, i funghi, essendo in grado di degradare cose, vengono messi nella produzione, appunto, di tutte queste cose, vengono messi nelle condizioni di iniziare a digerire i prodotti che gli vengono dati, quindi il latte nel caso del formaggio, l'orzo e il luppolo nel caso della birra, l'uva nel caso del vino. Loro iniziano a digerirli e nel digerirli trasformano queste sostanze, in alcuni casi producendo alcol come sostanza di scarto, diciamo, in altri casi producendo moltissima CO2, come nel caso del pane, che viene gonfiato di bolle dagli lieviti. E poi cos'altro c'era? Il formaggio, birra, ok, e vino, alcol e bontà. E tante belle cose, insomma. Esatto. E invece ci sono, ad esempio, la penicillina, è un altro fungo, esatto, che ci è molto utile, anche se per qualcosa di diverso. Esatto, la penicillina, che è un disinfettante, un antibiotico, sì. Esatto, e quindi è in grado di uccidere i batteri, non i funghi. La penicillina è stata isolata, è stata estratta da un fungo che si chiama Penicillium, che lo usa per la sua difesa immunitaria. E questo fungo è quello che è la muffa blu che cresce sugli agrumi e sulla frutta in genere. Non so se sì, quando okay. il tipico limone marcio, che rimane tipo in un angolo, diventa blu, quella è la Penicillium, che non consiglio di, non so, pippare quando si ha stretto sì, cocco, certo. Però sì. Dopo l'estrazione ci sta. Avevo letto che tipo in alcune zone lo usavano come negli impacchi, okay, da mettere sulle ferite. Peso. Quindi in realtà ci sta. Beh, non ci prendiamo lo stesso, responsabilità però, nel caso qualcuno pippi la muffa. Don't try this at home, esatto. Esatto. Sì, perché i funghi, appunto, loro degradano le cose, quindi sono mega skillati nella produzione di enzimi in generale e di molecole, perché ne fanno una per ciascuna, ogni molecola che esiste c'è la molecola dei funghi che è fatta apposta per smantellarla. Però sono così bravi a fare molecole che fanno anche molecole stra-interessanti, tipo la molecola della penicillina. Altre molecole stra-interessanti, okay, prodotte dai funghi sono per esempio la psilocibina, che è il principio attivo dei funghetti allucinogeni. Ok, storia. Che spesso in combo con altre molecole meno conosciute, infatti non conosco neanch'io, però non è mai solo la psilocibina. Spesso okay. Ci sono altre cose che la attivano, la regolano, anche una volta assunta. Ok. Però è quella che ti fa sbarionare di brutto, ti dà le allucinazioni, tutte queste cose. È solo una delle tante. Sì, tra l'altro, a proposito di allucinogeni, non credo si faccia anche coi funghi allucinogeni, ma con l'LSD sicuramente. Ci sono delle terapie di cura per diversi disturbi mentali che prevedono l'utilizzo in laboratorio, eccetera, eccetera, di alcune droghe come l'LSD. In particolare l'LSD si è visto che in un trattamento di psicoterapia per curare una depressione maggiore, quindi quelli che non si alzano dal letto o insomma, poi in realtà mille faccettature diverse, non è che voglio etichettare, okay, però così facendo qualche sessione di LSD con il terapeuta, eccetera, eccetera, questo è in grado di riattivare delle connessioni neurali proprio che ti fanno incuriosire delle cose, quindi tendere a attivarti. Peso. Ci sta, interessante. Ma non sono funghetti. Chiaro. Però mi sa che forse anche quei funghetti c'hanno. Cioè, sicuramente, beh, comunque cioè, tutti gli sciamani, cioè tutte le esatto. cose catartiche del passato, esatto, bene o male, o si sbronzavano o pigliavano funghi o di tanti tipi. Una cosa che sconsiglierei è di usare uno dei funghi che vengono usati come allucinogeni, è la Manita muscaria, quella rossa con i puntini bianchi, e sconsiglio vivamente di usarla perché in alcuni casi le allucinazioni ti vengono quando il tuo fegato o i tuoi reni stanno più o meno venendo distrutti. E quello che succede, ovviamente in una forma che spesso non è letale, con la Manita muscaria. Quindi quando la gente dice andiamo a mangiare quel fungo rosso e bianco che ci dà la botta, oltre in realtà a far vomitare, cioè quando lo mangi stai mega male di nausea e vomito, e poi hai qualche allucinazione. Beh, però quelle allucinazioni sono, cioè, perché tipo boh, c'è, cioè, l'organismo mega in sbatti, per, non è una molecola divertente che ti va nel cervello, sì, e sì, ti fa sbarionare, è tipo il corpo che sta impazzendo, sta tirando gli ultimi. Esatto. Ok. E vabbè, questa era solo una precauzione. Però altre cose utili sono, per esempio, quelli che formano le micorrize nei campi. Ok. E adesso si sta lavorando all'uso dei funghi per altre ragioni, ovvero una cosa che non è ancora stata fatta è usare i funghi come materiale da costruzione, ovvero i funghi come un materiale vero e proprio. Okay. E questo materiale, appunto, essendo un fungo che cresce, può essere fatto crescere della forma e dimensione che si vuole, e poi ha tutta una serie di proprietà che ovviamente cambiano a seconda del fungo che usi. E visto che ci sono così tanti funghi, possono esserci un miliardo di funzioni, sono ancora alla punta dell'iceberg di quello che deve essere ancora scoperto. E per esempio hanno dimostrato che possono essere usati come mattoni, e allora sono tipo mega isolanti, o come ci si possono fare tessuti, e ogni volta che si fa qualcosa si scopre che sono tipo mega ultra guzzi a fare quella cosa. Ci sta, ma si utilizzano le ife, cioè i filamenti? Questo non sono sicuro, però sì, di base viene usato, non viene usato, in realtà può essere anche usato il corpo fruttifero. Penso che dipenda da che cosa tu voglia fare, ci sono un miliardo di esperimenti. Okay. Sia che usano il micelio, quindi l'insieme delle ife, sia che usano okay, il frutto. Che storia. Mega peso. Sì. E poi altre cose, semplicemente un miliardo di altre molecole possono essere estratte dai funghi. Sicuramente un sacco di medicine e di medicine possono essere tratte dai funghi. Ci sta. La cosa più interessante di oggi, secondo me, è il discorso del legno che non veniva degradato come oggi la plastica. Cioè, una volta che si evolverà un fungo che mangia la plastica, abbiamo risolto quel problema. Sì, però se ne chiamano hanno risolto. Alla fine la cosa guzza della plastica è che non è deperibile. Se tipo impacchi il cibo in qualcosa che marcisce, l'impacco dura meno. Però alla fine magari è un prezzo che ci sta a pagare. Sì. E comunque esistono già, stanno scoprendo che esistono già sia dei funghi che dei batteri che sono in grado di digerire la plastica. Che storia. Sono per lo più in mare, però magari un giorno verranno, chi lo sa, utilizzati, speriamo. Certo, se la plastica diventa deperibile è un po' uno sbatti, però vabbè. Sì, allora Dave, grazie mille per oggi. Bella, è stata una bomba. Mi dispiace per il piccolo problema tecnico di prima, ma minchia, farlo dal vivo è tutta un'altra cosa, cioè sì, di brutto. Essere qua davanti al doppio schermo con i microfoni Guzzi e tutto, fighissimo. Noi ci vediamo, anzi ci sentiamo tra un mese, l'ultimo mercoledì del mese, quindi la puntata di giugno. Su cosa sarà, non ci abbiamo lo scopriremo tra un mese. Vediamo, magari facciamo comunque la diretta attaccando Dave col telefono, e così potrete eventualmente scriverci, o comunque è più figo che sia un programma in diretta piuttosto che registrato. Sì, dai. È strabello. Sentiamo come doppio, diciamo come coppia di tracce, una traccia, la nostra sigla finale, Greta Thunberg di Marrakesh, ma prima un remix trap di un classico, diciamo, della musica da videogiochi. Quindi niente, saranno i pezzi con cui ci salutiamo.